English 24. Un saluto da Marta Cagnola e da Giulia Crivelli. È un augurio di buon Natale e per questo Natale non manchiamo, ci siamo con una nuova puntata con un po' di brivido, perché dobbiamo andare a scoprire un libro appena uscito che si intitola La Lista. L'autore è Michael Connelly e l'ha incontrato per noi Alessandra Tedesco. Intanto ci siamo fatti raccontare da Michael Connelly qual è la storia di questo libro, di questa lista. It's a murder case that leads to a trial, and the book brings together the two characters I've been concentrating on, I guess, for many years now. Harry Bosch, who I've been writing about for a long time, and Mickey Haller, who is a defense attorney. And they oppose each other at the beginning of this book, and then they kind of realize they have to work together to bring a truth or to find the truth of what happened. Allora, è un caso di omicidio, succede insomma solitamente così in questi libri, e ce lo spiega per bene Michael Connelly. Tra l'altro notate la pronuncia, quando the, che è l'articolo, se però lo lasciamo lì sospeso, quella E finale si trasforma, giustamente se vogliamo, viene pronunciata come I, quindi lui all'inizio dice it's the, perché non c'è una parola dopo, quindi resta lì un po' sospesa. Poi però ci spiega che è the murder case, e quindi prima dice it's the, e poi the murder case. E è interessante appunto vedere che se dopo quel the, se il the è lì appeso, allora viene pronunciato in un modo leggermente diverso. C'è una cosa che mi piace molto di questi scrittori americani di grande successo: spesso hanno dei personaggi che tornano e diventano un po' dei loro personaggi affezionati. Devo dire, anche dal punto di vista narrativo, forse è più facile per questi scrittori riuscire a sfornare davvero un libro dopo l'altro. Hanno dei personaggi ai quali sono particolarmente affezionati, e in questo caso succede che lui abbia deciso una strana alchimia. Sì, diventano come degli amici, no? Per loro qui abbiamo ormai il nostro caro amico false friend character, che sappiamo che non vuol dire carattere ma personaggio, quindi, e qui abbiamo quella forma verbale che conosciamo, abbiamo imparato a riconoscere, che è quella che dà l'idea in inglese di un'azione che si è svolta lungo un lungo arco di tempo, quindi non the two characters I concentrated on, ma the two characters I have been concentrating on for, se abbiamo un'espressione di tempo, mentre avrebbe dovuto usare since se ci fosse stato, se lui ci avesse proprio detto da che anno si era concentrato su questi personaggi. Non ce lo dice, ci dice semplicemente for many years. E cosa è successo? Ci ha scritto per un sacco di tempo, l'ha detto, I've been writing on for a long time, e allora ha deciso a un certo punto bisognava farli incontrare per risolvere questo caso particolarmente complesso. Sì, poi attenzione che uno è un defense attorney, che non si può abbreviare in DA, perché il DA è il district attorney, che sarebbe un po' il procuratore generale, che è addirittura in America, sapete, no? Chi segue i legal thrillers sa che poi sono addirittura figure che vengono elette direttamente, perciò sono molto poi anche un ruolo politico. Il defense attorney semplicemente è un avvocato, quello che noi chiamiamo semplicemente un avvocato, cioè un avvocato penalista in questo caso, perché è un murder case. E they oppose each other, questi suoi due personaggi, all'inizio, cioè to oppose somebody vuol dire opporsi a qualcuno, essere agli antipodi, essere in contrasto, qui naturalmente un contrasto diciamo legale. E poi però lo capiscono, they kind of realize, in un certo modo, in un certo senso, si rendono conto che devono allearsi per risolvere questo mistero particolarmente intricato. Sì, anche qui questo nostro amico ormai, questo kind, che parola estremamente versatile, quando uno appunto vuole, è una cosa molto colloquiale, nella forma scritta in teoria non si potrebbe neanche dire, quindi they kind of realize, come diceva Marta, sì, più o meno si rendono conto che they have to work together, quindi they must, usa il have to, che è ancora più forte, quindi che devono assolutamente lavorare insieme to find the truth of what happened. Qui è un'espressione in teoria scorretta, perché si dice la verità di ciò che è successo, o to find out what happened, non to find the truth of what happened, però insomma lui vuole essere molto enfatico, quindi la verità di quello che è successo. I due si chiamano Haller e Bosch, sono famosissimi presso coloro che frequentano i libri di Michael Connelly, ma a questo punto vogliamo sapere perché gli è venuto in mente di metterli insieme per la prima volta. I was looking for a way of showing another angle on Harry Bosch. I've been writing about Harry Bosch for 20 years, almost every story is through his eyes, so you see the world through his eyes. And I wanted to bring another character in that could look at Harry from a different view, and that's Mickey Haller. And so that was really the inspiring point for this book, the chance to look at Harry after 20 years from a different angle. Una ragione drammaturgicamente molto efficace. Lui ha frequentato questo Bosch per 20 anni, cioè da 20 anni scrive di questo personaggio, e aveva deciso di ribaltare un po', possiamo dire, il punto di vista. Sì, qui c'è un phrasal verb che, se traducessimo letteralmente, sarebbe I was looking for a way, letteralmente guardavo per, no, in realtà è cercare, quindi cercavo un modo, e quindi di fare vedere questo showing another angle on Harry, e qui di nuovo la forma di prima aveva detto I've been concentrating on for many years, e qui ci spiega I have been writing about Harry for 20 years. Anche qua, siccome è un lungo periodo di tempo, ma usa il for. Se ci avesse detto 20 anni, allora supponiamo che sia dal 1990, avrebbe dovuto dire since 1990. E quindi per la prima volta non vediamo una storia vista dagli occhi di Bosch, ma è un altro personaggio, in questo caso Haller, che guarda a sua volta Bosch. È un po' un gioco di scatole cinesi che però funziona. Questo è un po' anche in italiano, non lo diciamo tu, vedere le cose attraverso gli occhi di qualcun altro. In inglese è un'espressione molto usata, to see, quindi to see through somebody's eyes, quindi anche il lettore vedeva il mondo, the world, through his eyes, attraverso gli occhi di Bosch, che era un po', quindi supponiamo, anche l'alter ego dello scrittore. Bisognava portare un altro personaggio. To bring in, anche qui non è proprio un phrasal verb, è un rafforzativo, perché naturalmente portare, quindi sarebbe intuitivo, no? Portare, to bring in, portare all'interno della storia un altro character. Questo è il solito nostro false friend, mai tradurlo carattere, perché è proprio personaggio. C'è un aggettivo che io adoro, che usano spesso gli americani, inspiring. Come Obama lo dice sempre, inspiring. E to inspire, naturalmente, è l'ispirazione, to inspire, ispirare, però inspiring, se ci pensate, noi lo usiamo forse poco, appunto, magari lo usiamo solo in senso letterario o artistico, in realtà qui naturalmente è proprio qualcosa che dà una scintilla, che ci fa vedere, letteralmente, come Obama, le cose in un modo diverso. Io sono una fan di Obama, lo sarò sempre, anche se non lo rieleggeranno, ma sono convinta che se si votasse adesso lo rieleggerebbero. Per te è una persona molto inspiring. Yes. E quindi abbiamo the chance to look at Harry from a different angle, l'abbiamo detto, da un punto di vista diverso, e anche un punto di vista di osservazione sull'animo umano. Ma a questo punto il dubbio un po' ci è venuta la curiosità di capire se essere un giallista ed essere stato un cronista di nera ha dato a Michael Connelly una conoscenza più profonda dell'animo umano. Basti sapere che questo libro inizia con una frase perentoria: Everybody lies, tutti mentono. I don't know if it's given me a deeper knowledge. It's given me, I guess, a darker knowledge. As a reporter and then as a novelist who does a lot of research with the police, I hear a lot of, I guess you would say, dark stories, and that leads to cynicism, and that would lead to that very first line that which comes from Mickey Haller, that he lives in a world where he believes everybody lies. And I think that's a pretty accurate statement for a character that has his history and position in society. Non lo sa se effettivamente tutto questo è riuscito a dargli una conoscenza più profonda, però dice sicuramente it's given me, quindi usa il passato, la forma passiva, it's given me a deeper knowledge, cioè questa mia conoscenza, questo mio vissuto, it's given me a deeper knowledge. Tra l'altro notavo mentre introducevi il pezzo e l'audio che tu hai giustissimamente tradotto tutti mentono, però notate che in inglese è everybody lies, quindi letteralmente ciascuno mente, che possiamo dirlo anche noi, però noi in italiano preferiamo di gran lunga dire tutti mentono. In inglese mai, perché everybody è singolo e però naturalmente indica la totalità, e perciò il verbo deve essere la terza persona singolare, quindi non everybody lie, come magari ci verrebbe spontaneo di dire, ma everybody lies, terza persona singolare. E tutto questo è l'inizio di questo libro di Michael Connelly che, lo dicevamo, ha fatto anche il cronista di nera, a reporter, e poi a novelist, quindi giornalista e poi romanziere, con un punto in comune tra le due attività: bisogna comunque fare delle indagini. Sì, questo è tra l'altro, questo è da notare anche qui, perché in italiano è leggermente diverso. Io spero che, insomma, tutti noi giornalisti facciamo sempre i nostri compiti a casa, cioè noi diciamo fare delle ricerche. In inglese invece si dice to does a lot of research, ricerca al singolare, cioè si fa un sacco di ricerca, proprio nel senso quasi universitaria. E lo faceva lui, dice, quando era un reporter, appunto un cronista di nera, e lo faccio ancora come romanziere, e lo fa però con i suoi forse vecchie conoscenze, with the police, con la polizia. E questa storia del fatto che chiunque menta, che tutti mentano, allora c'è un po' di cinismo nel momento in cui tu cominci ad avere questa conoscenza un po' nera, lui dice, dell'animo umano. Forse, appunto, avendo a che fare col crimine, non tanto perché ne scrivi, ma perché lo ascolti da chi lo vede quando è appena successo, cioè the police, e quindi dice, I guess, immagino, that you would say dark stories, cioè ascolto queste storie oscure, noi diciamo di nera, e that leads to cynicism. Lead, naturalmente, questo verbo super usato, super versatile, da cui naturalmente viene leader, che usiamo ormai penso in tutte le lingue, però questo porta, cioè questo ascoltare queste dark stories porta ad essere cinici, al cinismo, e qui usa il condizionale, quindi forse in realtà lui pensa che possa anche non succedere, that would lead to that very first line, e quindi questo cinismo potrebbe portare a quella vera, sapete che in inglese si dice quella molto prima linea, quella molto prima frase, noi naturalmente in italiano non possiamo dirlo, very first line, everybody lies. E chissà se è vero, perché questo Everybody Lies è solo la prima riga, è l'inizio della lista di Michael Connelly, il libro di cui abbiamo parlato oggi grazie all'intervista che ha fatto per noi Alessandra Tedesco. Dobbiamo salutare Michael Connelly perché il nostro tempo radiofonico si conclude qui. Vi ricordo che c'è sempre il nostro English 24 in edicola. Ringrazio Filippo Aureggi in regia, da Marta Cagnola e Giulia Crivelli. L'appuntamento al prossimo English 24, e ancora gli auguri di Buon Natale.